Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la diretta di Focus Economia, oggi come ogni anno in questo periodo in diretta dal workshop Ambrosetti, il forum Ambrosetti che si tiene a Villa d'Este a Cernobbio, prima giornata di lavori, domani sarà la volta del Presidente del Consiglio Renzi, domenica gli altri esponenti di maggioranza e opposizione in questo Paese, unitamente anche a vari esponenti del mondo economico-finanziario, non solo italiano, anche di carattere europeo e mondiale. Tra poco ricorderò quelli che sono tutti gli ospiti che si alterneranno e si sono già alternati in questi giorni. Vale la pena ricordare però due cose, che i lavori quest'anno si sono aperti con dei mercati finanziari oggi in netto ribasso, e mi riferisco a Milano, ma non solo, Milano perde il 3,30%, e di nuovo prospettive di crescita non esaltanti. C'è un rapporto di cui parleremo in apertura del Centro Studi Confindustria che, analizzando le variabili anche demografiche, non solo quelle congiunturali, oggi cita il rischio di una stagnazione secolare per l'economia mondiale. Le stime del PIL globale sono di una crescita del 3,2% contro il 5% che era in media il tasso di crescita dell'economia mondiale prima della crisi. Ecco perché il Centro Studi di Confindustria cita una crescita mondiale molto più bassa e lenta, non molto più lenta del passato, e anche delle attese. Dicevamo degli ospiti che si alterneranno per quello che riguarda i ministri e il governo italiano. Vi sarà Angelino Alfano, ministro dell'Interno, Mariana Boschi, ministro delle Riforme, ma non solo, arriveranno anche, per quello, oltre che il Presidente del Consiglio, vi sarà una videoconferenza del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, vi sarà il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, quello dell'Istruzione Stefania Giannini, e ancora, per quello che riguarda invece il numero degli vari esponenti di carattere internazionale, faccio notare che vi saranno capi ed ex presidenti che vanno dall'ex presidente dell'OPEC, segretario generale dell'OPEC, Shehbaz Eldin, Javier Solana. Insomma, è chiaro che sullo sfondo il tema resta una crescita che fino a sei mesi fa, anche quattro mesi fa, tutti davamo abbastanza per scontata. Il risveglio quest'estate, il rallentamento cinese e quant'altro. Ovvio che non sfugge nemmeno il tema di quello che riguarda il tema della pressione demografica e soprattutto del dramma che si sta svolgendo in alcuni casi ai confini dell'Europa, in altri casi in Europa stessa, e anche di questo si è discusso. Partiamo però con ordine dai mercati finanziari. Perché lo dico? Perché il 3% di Milano significa poi 3,30 in realtà adesso, significa poi per alcuni titoli come Unicredit un 5,30% di calo, Monte dei Paschi meno 5,20, Banco Popolare meno 5% come Azimut, Intesa San Paolo meno 4,80, CNH meno 4,30 come Mediolanum e Moncler. Il 4% lo perde Mediobanca, ma anche Toz e Tenaris e la Popolare Emilia Romagna. Mercati molto ballerini ormai da due settimane. Appunto, qualcuno mi sta già scrivendo: ma che senso ha una borsa che ieri recupera sulle parole di Mario Draghi e oggi perde tutti i realizzi? Non ha un gran senso, è inutile girarci attorno, se non a significare un'estrema volatilità da parte dei mercati finanziari e non solo quelli italiani. Per quello che riguarda altri titoli, citiamo per esempio tutto il mondo del petrolio oggi sotto pressione, Saipem meno 3,44% ed Eni perde in questo momento il 3%. Oggi c'è un dato americano sulla disoccupazione che è un dato in realtà buono, però è inferiore alle attese. Anche questo però è un pretesto, diciamo, tutta si aspetta la decisione della Banca Centrale Europea, della Federal Reserve sui tassi di interesse. A resistere oggi c'è soprattutto Pirelli invariata, Vuo Duty Free invariata, Ansaldo STS invariata. Sono Telecom Italia se la passa un po' meglio. Oggi c'è un'intervista su Sole 24 Ore del presidente di Telecom Italia Recchi, che ricorda come il Brasile sia strategico. Il titolo perde l'1,88%. Di questo parleremo lungo tutto il programma, quindi sia il fronte internazionale, lo scenario internazionale, che quello poi di carattere più europeo. Il numero per i vostri sms resta come sempre 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. D'accordo con l'ascoltatore che scrive, ma se non è speculazione questa, mi dica lei che cos'è speculazione. È vero, cioè, uno poi può trovare tutte le scuse del mondo, ma non possiamo dire che i mercati perdano questi livelli solo perché oggi il dato sulla disoccupazione americana segnala una disoccupazione al 5,1%. Perché lo dico? Perché ai minimi la disoccupazione americana dall'aprile del 2008, cioè da prima che ci fosse il crack di Lehman Brothers a ottobre, e certo ci si attendeva a una creazione di maggiori posti di lavoro, ma insomma sono tutte scuse. Gli Stati Uniti ad agosto hanno creato 173.000 nuovi posti di lavoro. La Casa Bianca ha fatto notare oggi che in tre anni gli Stati Uniti hanno creato 8 milioni di posti di lavoro, nonostante, diciamo, e questo permetterà, diciamo, di reggere bene anche quelli che vengono chiamati i venti contrari dell'economia globale. Allora, per quello che riguarda un altro vertice che si tiene oggi, il G20 dalla Turchia, da Ankara, i ministri delle finanze, i ministri del lavoro sono riuniti, si parlerà soprattutto da un lato di Cina e anche dell'aumento dei tassi di interesse americani, ma il focus vero e proprio è sulla tragedia, il dramma dei migranti, delle rotte migratorie. Ci dovrebbe essere una bozza di un comunicato finale in cui i 20 paesi ribadiscono il proprio impegno sui tassi di cambio contro il protezionismo, però lancia un allarme sugli effetti di un possibile aumento dei tassi di interesse americani. Più che possibile, molti lo vedono come assolutamente probabile, quasi certo. Allora, oggi veniamo all'Italia, c'è un indice che è il cosiddetto Misery Index elaborato dalla Confcommercio. Nel mese di luglio è diminuito di 9 decimi di punto, sotto i 20 punti. È una buona notizia perché si inserisce, come fa notare la Confcommercio, in un contesto di ripresa, sia pure non particolarmente sostenuta, in cui quasi tutti gli indicatori sembrano orientati al miglioramento. Da questo punto di vista, oggi è intervenuto anche il ministro Poletti per quello che riguarda la riforma del Jobs Act, che va sotto il nome del Jobs Act, ha espresso soddisfazione per la conclusione della riforma del lavoro, ha detto che gli ammortizzatori sociali sono stati estesi a 1.400.000 lavoratori prima senza copertura, cioè i lavoratori in aziende con aziende che hanno tra i 5 e i 15 dipendenti, e poi che il nuovo assegno contro la disoccupazione involontaria durerà 24 mesi, sostanzialmente durerà 24 mesi in un quinquennio mobile, un periodo che sale a 36 mesi se si usa la solidarietà. E ancora ha detto, con la riforma del mercato del lavoro c'è anche l'addio alle dimissioni in bianco, la certificazione delle richieste di dimissioni dovrà essere fatta su un modulo che va scaricato dal sito del Ministero del Lavoro, se non c'è un modulo datato e certificato la dimissione non è valida, quindi la pratica che avevano alcune imprese di far firmare la dimissione in bianco per diciamo, se staggono molti anche per poi ricattare il dipendente, non è più possibile, sostiene il ministro Poletti, con la riforma del mercato del lavoro. E poi ha sottolineato che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto attuativo del Jobs Act sulle attività ispettive, ha istituito l'ispettorato unico e quindi dice, anziché avere tre soggetti ci sarà solo un istituto che andrà a fare le ispezioni nelle imprese. Per quello che riguarda i controlli, la norma, ha precisato il ministro Poletti, estende i controlli sui nuovi strumenti di lavoro, quindi tablet e telefonini. L'utilizzo delle informazioni può essere fatto solo in rispetto della privacy, ma l'autorizzazione del sindacato a utilizzare questi strumenti come controllo del lavoratore o del ministero non è più necessaria per cellulare e tablet, solo per le telecamere. Comunque, per attivare il controllo a distanza su tablet e cellulari, come previsto dal decreto del Jobs Act, sarà comunque obbligatoria un'informazione preventiva e completa al lavoratore, cioè uno deve essere avvisato dall'azienda che attraverso il tablet e il cellulare l'azienda andrà a verificare se diciamo, c'è una veridicità tra quanto dichiara il lavoratore e quanto effettivamente avviene. Per quello che riguarda le reazioni, oggi non se ne sono segnalate, c'è però una dichiarazione del leader della CGIL, Susanna Camusso, che critica fortemente la decisione del governo di cancellare le tasse sulla prima casa. Si ignora, ha detto la Camusso, ancora una volta il fatto che bisognerebbe difendere le persone più deboli e aumentare la progressività fiscale guardando a chi ha di più. Allora, partiamo con il primo tema. In realtà il primo tema è stato lanciato o rilanciato dal Centro Studi di Confindustria. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, poi la pagina appunto di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, dicevo, il Centro Studi di Confindustria che con un'analisi, ripeto, più di ampio respiro, lancia un allarme, un titolo molto forte, attenzione, si rischia una stagnazione secolare per quello che riguarda l'economia mondiale. Allora, per essere precisi, questo non è il rapporto, le stime di previsione sulla crescita del Centro Studi Confindustria, ma è un'analisi, prendendo dati anche del Fondo Monetario Internazionale, sugli scenari di riferimento, quindi non è il rapporto congiunturale di revisione a rialzo o ribasso delle stime di crescita economica. Siamo in collegamento con il direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Dunque, voi in realtà, più che guardare la congiuntura al rallentamento cinese, alle tensioni che potrebbero arrivare da un Brasile in recessione, da una Russia che non si riprende, fate un ragionamento di carattere anche demografico e non solo di carattere congiunturale economico, in cui però il comune denominatore resta una previsione al ribasso della crescita del PIL mondiale. Paolazzi. È meglio sapere in che contesto ci si muove piuttosto che illudersi che si tornerà presto a crescere come prima della crisi. E il fatto che ci siano delle tendenze globali che impongono una dinamica più bassa del PIL e quindi la domanda del commercio internazionale credo che interessi molto da vicino le imprese e chi fa le politiche economiche, perché non c'è nulla di ineluttabile in tutto questo, si possono benissimo invertire le tendenze con le politiche adeguate. Per questo è importante sapere quale scenario abbiamo di fronte, uno scenario nel quale la crescita è più lenta, non solo di quello che avevamo prima della crisi, quando il PIL aumentava nel mondo di circa il 5% all'anno, ma anche di quello che ci aspettavamo banalmente un anno fa o anche sei mesi fa. Lo osserviamo nell'andamento, per esempio, del commercio mondiale, che riflette quello delle economie, e abbiamo una crescita del mondo che per il 2015 è intorno al 3,2% e se va bene per il 2016 sarà intorno al 3,6%. Questo significa avere dei mercati che si sviluppano più lentamente, questo significa minore dinamica delle esportazioni, non solo dell'Italia ma anche dell'Unione Europea, questo significa che è importante varare politiche economiche che stimolino la domanda interna in Italia e in Unione Europea, soprattutto di investimenti. Ecco, la cosa che più sorprende, o meglio, impressiona del vostro rapporto, alla luce anche di altri rapporti, è che voi prevedete un rallentamento maggiore nei paesi emergenti. E questo chiaramente fa il paio con quanto abbiamo raccontato in queste settimane della Cina, ricordavo prima il Brasile. Insomma, improvvisamente è come se ci fossimo svegliati con i famosi BRIC, per anni esaltati come vero traino della crescita mondiale. Insomma, dei BRIC, il Brasile è in recessione, la Russia, complice l'embargo, le sanzioni, è già dall'anno scorso in recessione economica, la Cina crescerà meno del previsto, l'India stessa sta rivedendo le previsioni, non è che possiamo puntare sul Sudafrica per la crescita mondiale. Cos'è il riscatto delle economie occidentali tradizionali? Mi sembra un po' un'esagerazione, nel senso che comunque la crescita degli emergenti, stando alle cifre che non sono state elaborate da noi ma dal Fondo Monetario Internazionale, i numeri che riportiamo sono del Fondo Monetario Internazionale, crescono a ritmi che sono doppi di quelli dei paesi avanzati e che hanno i paesi emergenti ormai complessivamente un peso pari a quello dei paesi avanzati, quindi il loro contributo alla crescita mondiale rimane doppio di quello dei paesi avanzati. Ed è normale così, perché rimane ancora una lunga strada da percorrere per questi paesi per raggiungere e inseguire gli standard di vita occidentali. Detto questo, come Centro Studi Confindustria è da tempo che abbiamo abbassato le previsioni di crescita dei paesi emergenti e siamo da tempo i più pessimisti rispetto alla loro dinamica. Le stiamo rivedendo ulteriormente a ribasso, questo sì, però appunto non è che ci siamo svegliati ora a dire che la crescita in quei paesi sarà più modesta relativamente a quello che ci aspettavamo prima. Resta sicuramente, come hai detto prima, una questione di rischio cinese, e nel senso che c'è un passaggio epocale di testimone in quell'economia da una crescita trainata dalle esportazioni e dagli investimenti, quindi dall'accumulazione di capitale, alla crescita trascinata dai consumi. E mentre diciamo per le esportazioni e per gli investimenti molto conta in un certo qual modo la politica, le direttive che la politica dà, per i consumi occorre invece in un certo qual modo tradurre la politica in incentivi che cambino i comportamenti delle persone. E questo è una sfida enorme, ineluttabile peraltro, e è una sfida nella quale il testimone della crescita può cadere per terra. Da questo punto di vista hai ragione a dire che quest'estate c'è stata una sorta di risveglio generale nei confronti della Cina. Fino adesso davamo per scontato che comunque la Cina sarebbe cresciuta del 6,5-7%, costituendo così diciamo circa un terzo della crescita mondiale, sottolineo un terzo della crescita mondiale. Adesso se diciamo i segnali che vengono dall'economia si traducessero effettivamente in una frenata più consistente, verrebbe meno una parte di questo impulso importante. Ecco, per inciso, il dramma e la tragedia che stiamo testimoniando e raccontando anche quanto Radio 24 con appunto le nostre inchieste sulla rotta dei migranti, è un elemento drammatico, tragico, ma diciamo che non avrà un impatto sul ciclo economico, oppure cambia anche la prospettiva, visto che voi nell'analisi di oggi vi occupate anche molto e soprattutto di demografia, cambia la prospettiva futura? Voglio dire, siamo di fronte a un'emergenza tragica, ma emergenza dovuta alla situazione in Siria e in Libia, nel Nord Africa, oppure questo, mutatis mutandis, ma sarà una tendenza con cui dovremo convivere e cercare di affrontare anche per gli anni a venire? Premesso che è difficile fare ragionamenti a mente fredda, quando il cuore caldo delle immagini e dei racconti che questi giorni popolano qualunque forma di media, le pressioni demografiche che saranno in atto e sono in atto e si stanno rivelando e inondando in fondo questa nostra vecchia Europa continueranno nei prossimi anni. Certo, quello che stiamo osservando in questo momento è il moto di persone che stanno scappando da una guerra che ha provocato 250.000 morti e quindi che ha creato milioni di profughi. Quindi sicuramente da questo punto di vista c'è un di più di disperazione, però per anni abbiamo assistito quasi impotenti agli sbarchi di immigrati che venivano dall'Africa sulle coste italiane. Adesso scopriamo che quegli immigrati o migranti trovano altre vie, altri canali che non sono solo quelli del mare. E quindi il problema che prima sembrava solo italiano adesso diventa di tutta l'Europa. Mi sembra anche giusto che questo sia, perché anche da questo punto di vista c'è un risveglio della realtà, nel senso che il continente africano sarà un continente in cui lo sviluppo demografico, la crescita demografica proseguirà molto potente nei prossimi anni, diventerà l'Africa, rappresenterà l'Africa un terzo della popolazione mondiale e non è un continente dagli alti standard di vita, un continente senza tensioni, un continente politicamente stabile, e tutte queste situazioni di difficoltà che le popolazioni avranno lì cresceranno con la densità demografica, e questo creerà una pressione formidabile a uscire da quelle condizioni e cercare lidi migliori. E attaccato all'Africa c'è un continente, l'Europa, che è ricco, benestante, con ampi spazi e con un bisogno di persone che crescerà nel tempo a causa del declino demografico, dell'invecchiamento della popolazione europea. Ricordiamoci che oggi senza gli immigrati la popolazione italiana sarebbe di circa 5 milioni e forse di più bassa di quello che è. Se pensassimo oggi all'economia italiana, ma anche alla società italiana, pensiamo alle famiglie italiane, senza gli immigrati probabilmente avremmo un'economia ferma e una società incapace di gestire bisogni elementari come l'accudimento dei figli o degli anziani. Grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. Il meteo e la pubblicità, poi ci ha raggiunto qui nei nostri studi, gli studi di Radio 24, al workshop Ambrosetti, Emma Marcegaglia, presidente dell'ENI, presidente degli industriali europei. Parliamo con lei di quanto sta emergendo da questa prima giornata di lavori dopo il meteo. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dal workshop Ambrosetti, il forum Ambrosetti di Cernobbio, Villa d'Este. Allora, abbiamo appena ascoltato l'articolazione del rapporto di Confindustria di oggi, ripeto, non è tanto di carattere congiunturale, però vorrei partire da qui con il presidente dell'ENI, nonché presidente, nella doppia funzione anche di presidente degli industriali europei, Emma Marcegaglia, per vedere se questo rapporto poi è come si integri con quanto emerso in questa prima giornata di lavori, va a confermare comunque una situazione di rallentamento economico globale dovuta principalmente a una frenata di Brasile, oltre che di Russia e della Cina. Siete preoccupati o ritenete che comunque vi possano ancora essere margini, non dico per un'inversione di rotta, ma per un assestamento di queste preoccupazioni? La preoccupazione c'è perché sicuramente questo rallentamento dei paesi che sono stati poi il motore della crescita degli ultimi anni, no? Quindi Cina in primis, ma appunto Brasile, Turchia, Russia preoccupa, questi sono paesi verso i quali molte delle esportazioni, non solo italiane ma anche europee, sono andate. In particolare la Cina potrebbe essere all'inizio di un periodo molto lungo, insomma di una transizione che potrebbe portare a una crescita molto bassa. Qui si tratta di cambiare completamente un po' il paradigma di un'economia basata oggi, che ha basato la sua crescita su grandi investimenti in infrastrutture, grande esportazione, e dovrebbe andare invece verso un'economia più basata sui consumi. Quindi la preoccupazione c'è un tema demografico, c'è un tema di investimenti. La nostra impressione però che i governi e le istituzioni possano ancora agire, bisogna certamente continuare su un processo di riforme per rendere le economie più produttive, bisogna continuare a investire. Uno dei temi che sottolinea la Confindustria è anche che c'è una mancanza di investimenti, non in Cina ma in altri paesi, quindi la nostra impressione è che ci sono preoccupazioni ma c'è ancora spazio per diciamo, correggere questo trend e non renderlo appunto un trend di stagnazione secolare. Ecco, su questo poi veniamo anche a un tema che non è di carattere eminentemente economico ma è comunque riguarda anche il mondo delle imprese, mi riferisco a quello che sta capitando alle frontiere o dentro l'Europa stessa. Il G20 che inizia oggi in Turchia si occuperà infatti di Cina, crescita e anche di pressioni migratorie. Però restiamo sul tema della crescita economica. Voi da questo punto di vista, come imprenditori europei, pensate che sia necessaria un'iniziativa appunto di carattere europeo per chiedere a Bruxelles tempi più rapidi sugli investimenti interni? Noi stiamo notando che l'errore di questa crescita, quel poco di crescita che si è avuta, è stato di essere una crescita troppo eterodiretta, troppo export oriented, come dicono quelli che hanno studiato. È molto giusto, c'è questa iniziativa del piano Juncker che noi abbiamo riconosciuto, come insomma un po' tutti, come un'iniziativa positiva. È importante che si concretizzi velocemente, che sia un inizio. 315 miliardi certamente non sono pochi, ma non sono nemmeno sufficienti per ritornare a un livello di investimenti quello che avevamo prima della crescita. Secondo noi è anche molto importante però che ci si focalizzi su alcuni punti importanti, non si disperdano le risorse. Quindi una cosa fondamentale per esempio è investire in tutto quello che tutte le infrastrutture che rendono il mercato interno europeo più forte, quindi sicuramente infrastrutture per l'energia, per il gas, per i trasporti, reti di ricerca comune in Europa, quindi bisogna fare più in fretta, bisogna essere più ficcanti, più concreti, e bisogna anche fare in modo che non ci siano tanti piccoli progetti dove disperdere i soldi ma pochi grandi progetti che possono veramente dare un valore aggiunto alla crescita. Ecco, a questo proposito, sul fronte investimenti, noi ci siamo occupati recentemente, qui parlo dell'ENI che lei presiede, di una scoperta di un giacimento supergiant di gas vicino alle coste egiziane. Hanno fatto notare vari osservatori, tra cui l'editorialista del Sole 24 Ore Leonardo Maugeri, che la cosa molto importante di quel giacimento è che è vicino alle aree di consumo, oltre che essere enorme. Questo denota anche una capacità, al di là dell'importanza economica, una capacità di know-how dell'ENI e della Saipem. Nel passato abbiamo letto molto di una possibile ipotesi di cessione della Saipem, sempre smentita dal gruppo, ma insomma nella sua visione noi dobbiamo rafforzare l'ENI e comunque i punti di eccellenza italiana, oppure andiamo a collocare sul mercato vendendole anche a prezzo buono, non a prezzo diciamo di sconto, però alcuni gioielli delle nostre partecipate? Sì, intanto mi lasci dire che questa scoperta dell'ENI è importantissima non solo per quello che dice Maugeri, perché è vicino, ma anche perché dimostra questa grandissima professionalità, capacità di ricerca che l'ENI ha rispetto anche ai competitor. Molte altre grandi aziende dell'oil and gas avevano provato a fare esplorazioni in quell'area, avevano fallito, noi siamo riusciti a fare. Quindi questo è un motivo, credo, di orgoglio molto importante, ha un impatto importante sull'Egitto, è molto importante per noi, importante anche dal punto di vista geopolitico. Quindi questo credo che vada sottolineata, questa grande eccellenza che l'ENI rappresenta. Su Saipem noi abbiamo chiarito abbastanza in modo evidente la nostra posizione. Per noi l'obiettivo fondamentale è deconsolidare il debito. Oggi ENI finanzia completamente Saipem, questo è ovviamente un qualche cosa a cui dobbiamo dobbiamo cambiare. Non abbiamo mai detto che vogliamo completamente uscire da Saipem, è allo studio, sono allo studio varie ipotesi, però ecco, ripeto, l'obiettivo per noi fondamentale rimane quello del consolidamento del debito. Ultimo tema che può sembrare marginale, ma voi siete un gruppo, anzi forse il gruppo in Italia che più ha rapporti con i paesi in via di sviluppo, paesi sviluppati e anche paesi da cui in parte arrivano i flussi migratori, non sempre, ma insomma il Medio Oriente è casa vostra dai tempi di Mattei. Se ne parlerà, dicevo, a G20 di Ankara in Turchia che inizia oggi. La posizione, come in questo caso, oltre che Presidente dell'ENI, è anche Presidente degli imprenditori europei. Qui c'è un problema tra pressioni, accoglienza, atteggiamento diciamo moralmente diciamo accettabile, però anche un problema di gestione economica della pressione che sta arrivando. Assolutamente, questo è uno dei grandi problemi che l'Europa dovrà affrontare, non solo l'Europa, ma certamente oggi la pressione è soprattutto verso l'Europa. Io credo che questo sia uno dei temi in cui deve esserci una gestione europea. Non è possibile vedere singoli paesi europei che vanno ognuno per conto proprio, non è possibile vedere alcuni paesi che rifiutano completamente, penso ai paesi dell'est Europa, ogni posizione comune o ogni diciamo accoglienza. Quindi io credo che su questo l'Europa debba avere una posizione comune, serve gestire il diritto di asilo in modo comune, sicuramente serve una gestione, un'organizzazione molto seria, perché qui, come diceva lei, siamo di fronte a flussi che potrebbero essere veramente molto pesanti. Ecco, mi pare che si stia però creando e formando una posizione comune tra Germania, Francia, Italia, che proprio parla di un obiettivo europeo e una gestione europea. Su questo bisogna andare avanti. Noi come Confindustria Europea avremo una riunione la prossima settimana dove sosterremo questa necessità di un posizionamento e di una gestione europea e non dei singoli paesi, che metta insieme solidarietà, accoglienza, ovviamente diritto di asilo, insomma, che dimostri che c'è una volontà europea di affrontare in modo molto serio questo problema. Ovviamente non basta accogliere queste persone, penso che l'Europa debba fare anche molto di più per sviluppare le aree da dove queste persone vengono e cercare di dare un contributo serio a placare queste situazioni anche di guerra dalle quali appunto queste persone scappano. Grazie alla Presidente del Gruppo ENI, nonché degli imprenditori europei, Emma Marcegaglia. Grazie, arrivederci. Restiamo in tema di scenari, rischi, incertezze. Questo sembra essere un po' il comune denominatore che è emerso, contrariamente a quanto uno avrebbe potuto attendersi anche solo a giugno, maggio, ma comunque lo scenario che sta emergendo in questa prima giornata di lavori qui al workshop Ambrosetti. La nostra Anna Marino ha raggiunto poco fa l'economista nonché presidente di SNAM e già membro del comitato direttivo della Banca Centrale Europea, Lorenzo Benismaghi, a cui appunto ho chiesto quali scenari futuri e soprattutto quali tensioni stiano emergendo da questi workshop, che ricordo sono a porte chiuse, quindi sostanzialmente poi ce li raccontano i partecipanti. Sentiamo Benismaghi. Stagnazione forse è un po' un termine troppo pessimista, mi sembra che ci sono dei segnali di ripresa, il prezzo del petrolio rimane basso, materie prime basse, inflazione bassa, e dunque vuol dire più potere d'acquisto, dunque ci si può aspettare una ripresa dei consumi anche, forse in prospettiva più elevata di quello che si pensava. L'Europa può fare di più per la crescita, è necessario fare altri interventi? Insomma, alcuni paesi crescono di più, la Spagna cresce al 3, noi cresciamo a meno dell'1, la differenza è dovuta anche al fatto che la Spagna ha fatto molte riforme, noi ne facciamo di meno, la Germania stessa cosa. Dunque, secondo me chiedere sempre tutto all'Europa è un po', come dire, passare la palla a qualcun altro quando in realtà dobbiamo giocarla noi. Perché l'Europa è fatta di diversi governi, secondo lei bisognerebbe che fosse più unita, più federata? Per ora su alcuni temi come il mercato del lavoro, la giustizia, tutti i temi sui quali l'Italia deve fare le riforme, diciamo, non ci sono prospettive di unificazione, dunque queste questioni rimangono questioni nazionali. Ecco, un'Europa così viene intaccata anche un po' dal terremoto dei mercati asiatici, secondo lei c'è incertezza anche sui nostri mercati a causa di quello? Ma no, non credo, perché oggettivamente i mercati asiatici sono limitati, erano totalmente squilibrati, si stanno riaggiustando, tra l'altro stanno arrivando i flussi in Europa verso i mercati, dunque le opportunità di investimento secondo me miglioreranno. Così appunto Lorenzo Benismaghi, adesso abbiamo un minuto di pausa per il traffico, poi continuiamo a ragionare con altri ospiti del workshop Ambrosetti di quanto sta emergendo. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Minuti ci ha raggiunto quindi negli studi di Radio 24 l'amministratore delegato del gruppo Enel, Francesco Starace. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Ha sentito sia Emma Marcegaglia che Lorenzo Benismaghi. È chiaro che è difficile, uno può anche dire sì, più o meno siamo tutti allineati, ma a me quello che fa impressione è vedere delle così tanti timori e incertezze quando, come ricordavamo nel produttore del programma, se solo avessimo fatto questo workshop a giugno o a maggio, probabilmente prima quindi dello scossone cinese di metà estate, probabilmente l'impressione e il sentiment sarebbe stato diverso. Veramente avete registrato un aumento dell'incertezza così forte? Noi no, io devo dire la verità, mi ha sorpreso una cosa del solito censimento che viene fatto, che rispetto alle altre volte, agli anni scorsi, comunque c'è un sentiment più positivo, nonostante quello che è successo in Cina. Ora è chiaro, la Cina ha avuto un effetto di paura, però sono completamente d'accordo con quello che ha detto Benismaghi, era una correzione necessaria, un mercato nuovo, c'è un po' di volatilità, niente di particolarmente strano. Credo che tutto sommato, mi pare di poter dire, c'è un sentiment decisamente più positivo di un anno fa, e il sentiment per l'Italia è importante. Che cosa potrebbe andare storto in base agli interventi che avete ascoltato? Poi arriviamo al tema anche del petrolio, che in questo momento è la variabile più... Abbiamo visto un petrolio muoversi con prezzi che assomigliano a quelli di un normale titolo azionario, più 3, meno 5, più 4, meno 2. Però le preoccupazioni più forti su cosa si concentrano? Però, diciamo, per me la principale preoccupazione è la situazione grave del Medio Oriente, che abbiamo incredibile instabilità, situazione di guerra strisciante alle nostre porte, vediamo centinaia di migliaia di persone che cercano di scappare. Quella secondo me è la priorità, è la preoccupazione principale. Mi pare che finalmente anche qualcun altro in Europa se ne è accorto. Sì, finalmente. Sì. E per quello che riguarda il petrolio, invece, che per voi, pur non essendo appunto l'anima, resta il tema forte del mondo dell'energia, perché poi sappiamo che i prezzi del gas seguono l'andamento del prezzo del petrolio, secondo lei si arriverà a una stabilizzazione o dobbiamo abituarci, come sosteneva i nostri microfoni 2 giorni fa Leonardo Maugeri, a prezzi del petrolio molto volatili e comunque deboli quanto prezzi? Premetto che la mia opinione rispetto a quella di Maugeri non conta nulla. Non esageriamo. Però sicuramente penso che non ci sia niente di cui sorprenderci. Il petrolio è stato volatile da un bel po' e lo è stato per molto tempo, continuerà ad esserlo, non vedo motivo per cui non dovrebbe essere così. È una commodity volatile per definizione, e con questo ci dobbiamo tutti quanti in qualche maniera fare i conti. Ma secondo lei ha sbagliato o ha perso la scommessa l'OPEC quando pensava di buttare fuori produzione i piccoli produttori di shale oil americano abbassando i prezzi del petrolio? C'è una scommessa che i paesi arabi in primo luogo stanno perdendo? Non lo so. Complice anche l'ingresso iraniano? Non lo so, e non so neanche se sia vero tutto ciò. Cioè, la verità è che nel momento in cui c'è una commodity che fisicamente è circa il 10% del volume che viene in qualche maniera tradato nel mondo, sono valide tante ipotesi, e finché così sarà ci possiamo divertire un sacco a scoprire dietro qualunque movimento del petrolio chissà cosa. A noi quello che interessa è essere sicuri di un fatto, che non è possibile pensare a un prezzo del petrolio stabile nel tempo, perché è una chimera, è un'illusione. Prendiamo atto di questo e decidiamo che, siccome il petrolio sarà volatile, lavoriamo su questo. Ecco, venendo poi all'Enel, quindi al gruppo che lei dirige, Questo significa cosa in termini di pianificazione? Significa sul prezzo delle commodities, non solo del petrolio, delle commodities energetiche chiaramente. Significa nel lungo termine svincolarsi più possibile dalla volatilità, quindi andare sempre su contratti a lungo termine sulla vendita dell'energia e conseguentemente contratti a lungo termine all'acquisto delle commodity. Nel breve termine significa chiudere il più possibile le posizioni e non prendere posizioni speculative su questa commodity che non governiamo, ammesso che ci sia qualcuno che la governi. Questo sembra anche strano. Che cosa dal punto di vista invece dell'Enel, in questo caso non dello scenario globale, vi preoccupa di più e dove invece, alla luce anche dei dati che avete diffuso, avete maggior margine, diciamo, di sicurezza, per non essere troppo ottimisti? Ma diciamo quello che può un attimino preoccupare all'Enel è una perdurare di incertezza dal punto di vista europeo per quanto riguarda la convergenza dei sistemi regolatori. L'Europa necessita un'armonizzazione dei mercati, lo sappiamo, l'abbiamo detto, siamo tutti d'accordo, per la prima volta l'industria parla con una voce molto semplice dicendo facciamolo. La Commissione ne ha preso atto perché ha creato una vicepresidenza che si chiama Energy Union, quindi sembra che lì si vada. Il traccheggio e l'incertezza su questo è un danno per tutti, incluso noi. Quindi è l'unica cosa che veramente ci preoccupa, la lentezza nel chiudere questa partita. L'unica cosa che vi preoccupa? Beh. No, tra le tante, diciamo, la più grande. Allora, l'amministratore legato dell'Enel, Francesco Starace, citava il sondaggio abituale che ogni anno viene diffuso a Cernobbio, lo facciamo anche per... con orgoglio di casa, visto che viene realizzato da Radio Cori Sole 24 Ore. Ascoltiamo questa scheda che ricorda le risposte date anche da molti dei partecipanti a questo workshop, non tutti perché il panel è ben più alto. Ogni anno viene chiesta a vari esponenti del mondo degli affari, dell'impresa e della finanza che qual è la loro prospettiva, quello che appunto gli inglesi chiamano il sentiment, a partire dai mercati azionari ma non solo. L'incertezza aumenta, ma almeno per ora prevale un certo ottimismo. Interpellati dall'agenzia Radiocor sull'andamento da qui a sei mesi di borse, mercati valutari e materie prime, i 232 operatori del panel non vedono bufere all'orizzonte. Per il 43% le borse sono destinate a salire tra il 3 e il 10%, mentre per il 34% i listini rimarranno sostanzialmente stabili. In pochi, 8 su 100, si attendono forti rialzi. Ancora meno, appena il 2%, ribassi di oltre il 10%. Più significativa, con il 13%, la quota di chi prevede comunque una flessione fino a 10 punti. In attesa di conoscere le tempistiche delle mosse della Federal Reserve, l'euro è atteso ulteriormente indebolito sul dollaro dal 36% degli interpellati. Il 39% si attende invece un cambio stabile e il 22% un contenuto rafforzamento della moneta unica. Dallo spread non dovrebbero arrivare particolari scossoni. Soltanto il 9% del campione si attende un differenziale di rendimento tra titoli italiani e tedeschi in risalita fino a 150 punti base. Il petrolio dovrebbe mantenersi sui valori attuali per quasi un intervistato ogni due. Il 29% scommette su un calo ulteriore, il 24% su un recupero. Timori infine per la situazione cinese. Oltre la metà degli interpellati ritiene che le recenti svalutazioni nascondano difficoltà dell'economia cinese che avranno un impatto sui mercati. Per il 40% si tratterà però di un impatto limitato. Questo sondaggio di Radio Cori Sole 24 Ore, c'è un ascoltatore che mi dice: ma lei è contro gli inglesismi e continua a dire workshop? Purtroppo, per fortuna, è il nome ufficiale, devo dirlo, perché non si chiama in un altro modo. Resto contro gli inglesismi. Francesco Starace, in una battuta, perché abbiamo pochi secondi, il 50% in realtà ritiene che il prezzo del petrolio resterà più stabile. Lei apparteneva all'altro 50%. No, io ho sempre detto non lo so. Ah, quindi lei non ha proprio risposto. Questo sono molto molto attento. Non mi estrarrete una valutazione sul prezzo del petrolio. Va bene. Magari la prossima volta parliamo di calcio. Grazie all'amministratore delegato dell'Enel Francesco Starace. C'è il GR24, poi i mercati finanziari e oggi li faremo commentare a un finanziere che una volta l'anno viene a trovarci, Davide Serra, fondatore del fondo e creatore del fondo Algebris. GR24. l'economia oggi è un'economia che si basa sull'attrazione dei talenti, sulla conoscenza, e dobbiamo farli rimanere quelli bravi e attrarre di nuovo qui quelli che sono andati via perché non vedevano le condizioni per farlo qui. Solo i paesi più attrattivi vinceranno la sfida della globalizzazione. L'Italia cosa offre ai suoi giovani? Ho visto l'università e l'ho vissuta come uno specchio della realtà italiana, e tutto quello che ho visto mi ha fatto capire che in realtà senza agganci non vai molto avanti. Giovani Talenti vi racconta l'Italia del futuro, una nuova classe dirigente che dice sì al merito, no alla raccomandazione, sì all'innovazione, no alle rendite di posizione. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti su Radio 24. I tipi come lei sono quelli che si fanno mettere i piedi sulla testa. Lei rappresenta la parte sana, la parte onesta, la parte pulita del paese. Viceversa, quelli sono proprio la parte, capito? Davanti alle storiacce potete scegliere. O fate gli struzzi o aprite gli occhi. Ma se mettete la testa sotto la sabbia, i problemi non spariscono. Anzi, mafiosi, corrotti e furbetti riuscirebbero solo a fregarvi di più. Tanto vale smascherarli, no? Noi vogliamo farlo, anche con le vostre segnalazioni. Le storiacce di Raffaella Calandra sono tornate e diventano anche mitiche. Sabato 21:30, solo su Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui da Cernobbio, dal workshop, si chiama così, è in inglese, Ambrosetti. Prima giornata di lavori. Allora, veniamo ai mercati finanziari, però già in parte accennati durante la prima ora del programma. Meno 3,20% alla fine la chiusura di Milano, con tutti i titoli in calo. Devo dire che si salvano Pirelli, Ansaldo e World Duty Free, che hanno chiuso invariati, meglio di altri A2A meno 0,70, Terna meno 1,1, Jux meno 1,70 come Enel Green Power. Poi invece c'è la pattuglia di titoli che perdono quasi il 5%, Unicredit meno 4,90, Azimut pure, e anche Monte dei Paschi perde il 4,90%, Intesa San Paolo il 4,5% come il Banco Popolare e la Popolare Emilia Romagna, poi Moncler, Tenaris e Mediolanum perdono il 4,20%. Continuiamo con Todds, CNH Industrial e Mediobanca meno 4%, il 3,80% del calo di Unipolsai, Saipem, Popolare Milano e Ferragamo, il 3,5% quello di Finmeccanica, Ubibanca. Infine qui ci fermiamo con chi perde il 3%, Atlantia e Fiat Chrysler, ma anche Campari. Allora, sapete, la linea di chi vi parla è di non trovare senso a questa storia se un senso non ce l'ha, come cantava Vasco Rossi, se non ricordo male, e non trovare un senso a questa borsa se questa borsa non ce l'ha, perché ieri abbiamo visto tutte le borse euforiche dopo le parole di Mario Draghi. Oggi a noi è sfuggita una grossa notizia tale da giustificare i cali registratesi a partire da Piazza Affari. Però magari qualcosa ci è sfuggito veramente. Chiedo conferma ai colleghi di Radio Colli Sole 24 Ore. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Ma grosse notizie specifiche. Allora, ho visto le agenzie. Dimmi. No, dicevo, sì, hai ragione, non ci sono grosse notizie che giustifichino un'ondata di vendita. La notizia, secondo gli osservatori, è l'incertezza, la crescente incertezza sulle mosse della Federal Reserve dopo il dato sul mercato del lavoro americano, che ha lanciato segnali contrastanti, dando quindi argomenti sia a chi è a favore di un rialzo dei tassi già il 17 settembre e sia a chi invece vorrebbe rinviarlo. Quindi la crescente incertezza che non piace al mercato, che si affretta a incassare i guadagni fatti ieri, spingendo tutti i titoli in calo oggi. Allora, di questa incertezza ha parlato poco fa ai microfoni della nostra Anna Marino il numero uno di Unicredit, Federico Chizzoni. Il titolo è il peggiore oggi, se ho ben visto il dato finale in borsa. Anche lui, insomma, ricordo come ci sia un'estrema volatilità, ma non con delle giustificazioni particolarmente forti e ragionevoli. Sentiamolo appunto al microfono di Anna Marino. L'incertezza si vende, si compra e si realizza. Io sarei più preoccupato se ci fosse un grosso declino sul prezzo dei bond, che invece è molto stabile. Quindi i bond rappresentano i fondamentali sono stabili, la borsa rappresenta un po' il sentiment del mercato che è molto variabile in questi giorni. Insomma. Che ci sia una riduzione della crescita dei paesi emergenti è un po' di fatto. Non è una decrescita da un giorno all'altro, è un qualcosa che possiamo stimare anche di medio termine. E l'Europa dovrebbe reagire con dando maggiore impulso agli investimenti privati industriali, alla crescita interna, ai consumi interni. E qui non ci sono risposte sufficienti, quindi i mercati stanno aspettando di capire come i governi si muoveranno appunto con la riforma per stimolare consumi interni e crescita produttiva. No, stiamo sorridendo perché la nostra collega Anna Marina è riuscita a prendere proprio tutti i gong che richiamano i relatori all'interno della sala riunioni, uno dopo l'altro, mentre per la Ghizzo, no, uno può chiedersi ma che sta succedendo, dove l'ha intervistato, in una tribù, diciamo, della foresta nera? No, è il gong che richiama i relatori poi al loro ingresso perché riprendono i lavori. Allora, Paolo Paronetto, al di là di questo, vediamo alcuni titoli nello specifico. Le banche oggi tutte hanno ceduto e parecchio. Ha resistito Telecom Italia, qui c'è un'intervista del Presidente Recchi oggi su Sole 24 Ore, il quale ha ribadito tra le altre cose che il Brasile per loro resta la loro presenza in Brasile resta una presenza strategica, poi anche Telecom ha chiuso in negativo, meno 2,15%. Paolo. Sì, esattamente, comunque ha fatto meglio del mercato, Recchi ha sottolineato il valore della strategia di alleanza portata avanti da Telecom tra TLC Media e Media, ha auspicato, ha detto che qualunque nuovo azionista, anche la CDP, è benvenuto e si è detto fiducioso appunto sui prossimi sviluppi, ribadendo la strategicità del Brasile, indicazioni fondamentalmente positive, anche se nulla di particolarmente rilevante, che comunque hanno sostenuto il titolo Telecom. Segnalo inoltre che i tre titoli che hai citato tu in apertura e di sezione, cioè i tre titoli che hanno resistito alle vendite, sono tutti e tre in vista di OPA, quindi di fatto rimangono inchiodati ai prezzi delle future OPA ed è per questo che sono rimasti fondamentalmente invariati e non sono scesi come tutti gli altri. Allora, sempre a proposito di borsa e di banche, oggi al di là dei cali significativi che hanno avuto soprattutto i titoli bancari e sempre a proposito di quello che è presente oggi su Sole 24 Ore, faccio notare che c'è un articolo in prima pagina dove viene ipotizzato un piano salvabanche da 1,5 miliardi, cioè l'ipotesi di una holding finanziaria e finanziata dalle altre banche italiane per ricapitalizzare Banca Marche, Carife, Popolare dell'Etruria e insomma l'ipotesi di convertire in azioni fino a 700 milioni di euro di bond di obbligazioni subordinate per ricapitalizzare con queste banche in difficoltà. Su questo si è espresso sempre qui al margine dei lavori del forum Ambrosetti, dai, lo chiamo forum così viene meglio, si è espresso il presidente del consiglio di gestione di Intesa San Paolo, Gian Maria Grosspietro, il quale ha detto sostanzialmente sia i salvataggi ma non compriamo nessuno, lo ha fatto anche in questo caso al microfono della nostra Anna Marino. Dal 1 gennaio dell'anno prossimo parte il cosiddetto bail-in, e cioè un nuovo regime concordato a livello europeo in base al quale al salvataggio delle banche, e tengo a sottolineare che il salvataggio delle banche è un'esigenza, perché non vuol dire salvare le banche, vuol dire salvare i depositanti, a questo salvataggio bisognerà contribuire non più con i soldi dei contribuenti, come è successo in alcuni paesi europei, non in Italia, ma in primo luogo con il capitale degli azionisti delle banche che sono state male gestite e secondariamente anche con dei sacrifici di coloro che hanno concesso crediti a queste banche, crediti naturalmente non gratuiti. Detto in parole più trasparenti, chi ha investito in titoli di debito ad alto tasso di interesse, correndo un rischio, se le cose vanno male il rischio lo deve sopportare. Questo è il principio del bail-in. In Italia le crisi bancarie sono sempre state coperte con i fondi di altre banche, non con i fondi dello Stato, con i fondi di altre banche, in proporzione alla loro quota del mercato italiano. Noi che siamo la prima banca per presenza in Italia, siamo quelli che pagano la quota più alta di ogni salvataggio che interviene. Allora, in questi ultimi mesi, prima che parta il bail-in, ci sono dei temi sul tappeto e l'idea è che anche in questo caso i depositanti devono stare tranquilli, ma non si può pensare che i problemi creati dalle banche mal gestite si riversino sulle banche che invece si sono comportate bene. E quindi è chiaro che si dovrà sviluppare un meccanismo nel quale coloro che prendono l'onere di tutelare i depositanti delle banche mal gestite, lasciatemelo dire in termini molto correnti, abbiano anche il potere di fare quello che è necessario per contenere al minimo il danno. Quindi riferimento appunto Banca Marche, Popolare Etruria, Cari Firenze, ma tutto nel centro Italia, questi tre casi. Dicevo, il riferimento era a queste banche, ma insomma la posizione di Grosspietro è molto chiara. Vabbè, possiamo pensare di garantire i depositanti, ma non chiedeteci di fare questo senza un prezzo, soprattutto così. Di mettere solo i soldi senza potere e capacità decisionale. Migliori e peggiori della giornata, CIR più 6,21, Digital Brothers più 5%, Industria Innovazione più 5, Tewind più 3,60, poi Massimo Zanetti Beverage più 2,80%, fronte opposto invece PRL meno 6,70, E.ON meno 5,60, Fedon meno 5,50%. Grazie Paolo Paronetto, buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Il traffico, e poi ci ha raggiunto qui per l'ultima parte di questa diretta da Cernobbio Davide Serra, molto conosciuto in alcuni casi perché è stato fondatore, oltre che vicino al premier Matteo Renzi, a cui ha fatto conoscere l'ambiente finanziario italiano, gestisce il fondo, anzi più di un fondo, Algebris, da sempre positivo sulle prospettive di borsa. Vediamocelo anche quest'anno dopo il traffico. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, dicevamo, continuiamo a parlare di mercati, ma non della giornata, ma delle prospettive, alla luce anche di questa incertezza più forte di quanto non ci si attendesse qualche mese fa, emersa in questa prima giornata di lavori. Per quello che riguarda la borsa, ripeto, non è tanto la giornata di oggi, ma ripeto, ringrazio e saluto per averci raggiunto in collegamento e qui negli studi Davide Serra, fondatore del fondo Algebris. Buonasera. Ciao. Voi avete sempre avuto un atteggiamento abbastanza positivo sui mercati, tutte le volte che abbiamo avuto in trasmissione. Lo mantenete nonostante le prospettive di crescita siano state riviste globalmente a ribasso e in particolar modo sui paesi emergenti, con conseguenze anche per l'area euro? Guarda, noi negli ultimi tre anni siamo stati molto positivi su tutto ciò che era paesi sviluppati e short net, quindi fondamentalmente visione negativa su tutti i paesi emergenti. In particolare quest'anno siamo stati positivi sino a giugno-luglio. A luglio, per il semplice fatto che bisognava andare tutti in vacanza a rilassarsi, abbiamo ridotto l'esposizione da 70 su 100 a 30. Il 24 di agosto, quel lunedì martedì famoso, nel momento in cui c'è stato il crash dell'S&P dell'8% dei mercati globali, abbiamo preso la decisione come team di aumentare l'esposizione netta da 30 a 60. Quindi decisione molto importante. Secondo me, soprattutto per ciò che riguarda i paesi sviluppati, è stata un'ottima opportunità. Per la prima volta poi, negli ultimi 2-3 giorni, abbiamo coperto le posizioni short nei paesi emergenti, quindi secondo me ormai il sell-off nei paesi emergenti siamo arrivati dove bisognava arrivare, e anzi negli ultimi 2-3 giorni ho aperto una posizione positiva del 10%, quindi portando il rischio a 70 per la prima volta. Fammi dare un po' di numeri. Il primo numero, in Asia il prezzo di Hong Kong nel momento più basso del 2009 del 2011 era all'incirca 8.000 l'indice, oggi l'indice è a 9.000, inizio anno era 11 ed era salito sino a 15.000, e il vero motivo che è salito nonostante l'economia rallentasse è semplicemente perché hanno creato 50 milioni di conti dove la gente si faceva dare i soldi dalle banche e comprava titoli azionari. Quando le banche gli hanno chiesto i soldi indietro, questi hanno venduto le azioni, né più né meno. L'economia rallentava, la Cina ha svalutato del 2%, ma sono 10 anni che si rivaluta del 4%. Va messo in un contesto di riferimento. Secondo tema, la valutazione, il multiplo del patrimonio netto, cioè quanto paghi la cassa delle aziende, oggi è meno di 1 ed è il multiplo più basso del 2011 e del 2009. Quindi fondamentalmente c'è un'opportunità di comprare al prezzo degli ultimi 10 anni. Poi qui l'analisi è molto semplice, uno deve dire, ma scusa, oggi hai gli stessi problemi macroeconomici che avevi nel 2009 con perdite di 2, 3, 4 trilioni a livello globale, produzione industriale che è crollata del 20%, o nel 2011 dove c'era il rischio che saltasse l'Eurozona, o no? Secondo me siamo in una situazione completamente diversa, dove non hai un rallentamento della Cina da 3 anni ormai telegrafato a tutti, dove smettono di costruire strade, porti e infrastrutture e iniziano a focalizzarsi su consumo e servizi, quindi con il crollo delle materie prime, giustamente, che tornano al prezzo marginale, incluso il petrolio, e questo crollo di materie prime, incluso il petrolio, è di fatto un regalo di 2-3 trilioni su un GDP globale di 80, quindi parliamo di un 4-5% di PIL, che invece di essere pagato ai produttori di materie prime viene ribilanciato a chi le consuma, che sono India, Europa e in parte Stati Uniti. Quindi cosa fa? Sì, che oggi secondo me l'Europa è un mercato attraente, perché anche qui i numeri, pre-crisi, 2009, l'S&P stava a 1600, oggi sta a 2000, quindi è salito del 20%. L'Europa stava a 4500, oggi sta a 3300, quindi è scesa del 30%. Quindi c'è un gap di 50% dal 2009 al 2015 Stati Uniti rispetto all'Europa. Secondo, se come valori di borsa in generale, questo qua, gli indici generali. Sì, certo. Quindi il concetto cos'è? È che oggi se tu prendi il valore in dollari dell'Europa, siamo al multiplo più basso degli ultimi 40 anni. Ora io ne ho 44 e se uno mi dice, bene, sei nato 40 anni fa, hai un'opportunità di comprare, e io considero il dollaro la valuta globale degli investitori, perché fatto 100 risparmio al mondo, 70 sono denominati in dollari, ok? 30 sono proprio gli americani e 40 sono di gente in giro per il mondo che non si fida alla propria valuta e converte in dollari. Quindi 70% del mondo oggi può comprare l'Europa al prezzo più basso degli ultimi 40 anni. Bene, non ti so dire cosa succede nel prossimo 4 settimane, 2-3 mesi, perché come dire, nessuno ha la boccia di cristallo, però quello che so è che su un orizzonte di 12, 24, 36 mesi questo è il momento dove si può iniziare ad investire. Molto ottimista, nonostante, ripeto, tutte le revisioni che tu vedi in maniera più congiunturale. Che cosa potrebbe andare storto però? Perché immagino che sì, un elemento, uno scenario B l'abbiate previsto. Diciamo. Certo, dunque ci sono due temi oggi. Fatto 100 risparmio al mondo, oggi 70% più o meno è in reddito fisso, ok? Quindi obbligazioni tra titoli di Stato, corporate, che rendono tra l'1 e il 2%, niente. E dopo 40 anni di discesa dei tassi, adesso i tassi inizieranno a salire. Quindi tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra nei prossimi 3-6 mesi i tassi passeranno dallo 0, allo 0,25, allo 0,50. Qui a questo punto cosa si crea secondo me? Si crea che innanzitutto chiunque abbia quel reddito fisso nei prossimi 3-4 anni, il meglio che gli possa succedere è che si riporta a casa il capitale. Dal punto di vista mark to market inizierà a perdere soldi appena si alzano i tassi. Certo. Però a questo punto cosa fai con quei soldi? Li rimetti in banca allo 0,25? O probabilmente c'è qualcuno che inizierà a rimetterli in equity quando oggi, esempio, l'Europa, in azioni, ti paga un dividendo del 4-5%, l'indice. E in tutto ciò l'Italia è il mercato ancora più sconto. Tre numeri semplici. Se tu investi 100 negli Stati Uniti, ci vogliono più o meno 18 anni perché le società con i loro profitti ti ripaghino il 100 che tu hai investito. Questo si chiama il multiplo del price earnings, certo, il famoso PE. In Europa questo numero è in circa 15, quindi fai, recuperi i soldi più velocemente, perché? Perché cresci anche meno. In Italia siamo ancora più bassi. Quindi secondo me è un momento congiunturale dove l'Europa di fatto è come se tu giocassi a poker e hai trovato quattro assi, perché hai da un lato riforme strutturali in Spagna e Italia, che sono i due paesi che veramente contano, che stanno uscendo dalla crisi, stanno facendo entrambe riforme. Sì, ci sarebbe anche la Francia, diciamo che... Sì, però la Spagna non è scesa, era a 100 e a 100. L'Italia e la Spagna erano a 100, erano scesa a 90, la Spagna oggi sta a 94, noi stiamo a come dire, 91. Quindi il vero tema è che hai due economie che hanno perso il 10 e stanno recuperando. È molto più facile quando hai perso 10 recuperare 2 o 3, certo, che non invece, la Francia che, era rimasta, che non è rimasta 100 e devi accelerare, capisci? Noi dobbiamo recuperare, quegli altri devono accelerare. Secondo tema, quindi hai un asso, iniziano a farsi le riforme. In Italia negli ultimi 18 mesi, in Spagna già da 2 o 3 anni. Secondo, hai triplo shock. Materie prime e petrolio, queste da solo valgono 2 punti di PIL per l'Europa, matematicamente. Abbassamento dei tassi di interesse, e questi valgono quasi 1%, quindi sono 3. E dopodiché hai la svalutazione dell'euro nei confronti del dollaro, e anche questo aggiunge un giungio. Quindi secondo me tu hai 3-4 punti di PIL a livello europeo che ci giochiamo nei prossimi 3-4-5 anni a bocce ferme, cioè se non cambiano chiaramente i prezzi. Quindi secondo me con questo impulso ciclico e valutazioni dal punto di vista del dollaro ai prezzi più bassi degli ultimi 40 anni, io dico, dal punto di vista di se tu sei un asset allocator, qualcuno che guarda risparmio a 2-3 anni, oggi secondo me iniziare a investire in Europa ha senso, cosa che noi stiamo facendo. Cioè, noi siamo investitori di medio-lungo e quindi ha un senso investire in Europa. Beh, una nota di ottimismo ogni tanto ci vuole, visto che oggi la giornata si è contraddistinta soprattutto per perplessità e incertezze. Grazie a David Serra, fondatore appunto del fondo Algebris. Grazie, alla prossima. Mentre ci saluta, vedo molti ascoltatori che non sono d'accordo con lui, e ci mancherebbe, nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno fa l'oracolo, però è la sua visione, chiaramente. Allora, è veramente tutto per questa puntata. Devo ringraziare come sempre Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Per quello che riguarda l'esterna qui da Cernobbio, Filippo Aureggi e Davide Cioccia. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi, saremo in diretta tutta la settimana dall'Expo di Milano per la seconda settimana, secondo appuntamento di Radio 24 all'Expo di Milano. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi lo passerà lavorando. Radio 24, la passione si sente.